da materno ancestrale a Checheré. Io cerco la dea che contenga la mia anima, una dea così grande da abbracciare i frammenti di me sparsi per il mondo. Io cerco la dea che uccide senza uccidere, la dea mai nata da alcuno che fa nascere, la dea che lascia le sue tracce, ma non è mai passata di là. Io l'ho cercata in forma di serpente, io l'ho cercata come uccello e pesce, io l'ho cercata con le sue mille teste e tutte le volte che l'ho vista mi è sfuggita. Tutte le volte che l'ho udita non l'ho vista. Cerco la dea della forza delle donne, una dea giusta per i figli e per le figlie, la dea del cielo e della terra, la dea dei quattro elementi, l'orihà del sorriso e della memoria. Cerco la dea che apre il cerchio della storia. Da Madre Marghera, gli alberi. Gli alberi hanno radici esposte all'aria, nell'isola delle Trezze, sulla terra divorata dal canale dei petroli. Tra le radici pendono sacchi di plastica nera, come frange di scialle portato a lutto. Tu, albero, insegnami come vivere con queste radici. Da canzoni di coppie mitiche, Tiamat e Marduk. Tiamat è la madre babilonese del cosmo e delle grandi acque, la prima dea. Marduk è il suo oppositore. Immaginate il fondo scuro di una laguna e la nube nera del vulcano senza nessuna luna. Immaginate i soli, il loro fuoco ribelle, miliardi di lapilli salire alle stelle. Mescolate come pane quella materia oscura. Questa ero io, Tiamat, quando ero ancora intera. Marduk mi tagliò in due, come si tagliano le mele. Fu il peccato originale da cui nacque Babele. Di spada spezzò in due la sfera ideale. Così inventò il bene, così creò il male. Della ferita inferta narra una stele di sacerdoti bugiardi che vomitavan fiele. Da allora l'amore dura solo pochi istanti e sono sempre in guerra della terra gli abitanti. Divisero le coscienze dalla saggezza dell'animale, dissero l'uomo superiore per diritto ancestrale. Con la spada trafisse in me, Tiamat, ogni sposa, in modo che nessuna fosse mai più gioiosa. Da allora sulla terra le api non dan miele, che pochi mesi all'anno soltanto a chi è fedele. Contro tutto il creato agì quell'impietà, perché il mito anticipa e forgia ogni realtà. E io, Tiamat, divenni l'acqua nera e crudele, che con la sua tormenta inghiotte le vostre vele. Sognate diversamente, umani scellerati, sognatemi intera, basta sogni sbagliati. Scheherazade e il sultano. Donne fatte e giovinette tra i vapori dell'Hammam, prigioniere o pur comprate, stan le schiave del sultano. Ma su tutte ce n'è una che con lui non vuol giacere, lo fa roder di passione e di lui non vuol sapere. Fosse un'altra, ordinerebbe che le mozzino la testa per aver rifiutato di piegarsi alla richiesta. Ma il cuore del sultano batte ormai solo per lei. Però oggi lo ha deciso: o cede o morte per costei. Scheherazade, avvolta nei veli, ora è davanti al trono e si inchina e non sorride al tremendo suo patrono. Io vi prego, signore, maestà, sono una cantatrice. Prima vi canterò una storia che vi renderà felice. Quel capriccio lui le accorda. Quando il conto storia finirà, come sempre ciò che vuole, da sultano la otterrà. E comincia la bella a cantare di un sultano che odia le donne, e nella storia inventa altre storie per mille notti, lasciandolo insonne. Aladino e la lampada magica, Abracadabra e Ali Babà, quante storie in questa storia, chissà quando finirà. Scheherazade, avvolta nei veli, ogni sera davanti al trono, e si inchina e ora sorride al tremendo suo patrono. È una storia molto antica, ma la tace qui il boccaccio. Non ci dice come mai Scheherazade lo mise al laccio. Scheherazade gli versa il vino mentre lui resta a sentirla. Passano giorni, passano notti e non riesce più a circuirla. E mentre il sultano, rapito, ascoltava, goccia a goccia nel vino lei la droga versava. E dopo mille notti, mille, lei versò l'ultima goccia, la millesima fu fatale e forò infine la roccia. Scheherazade, coi veli nel vento, davanti al trono rimasto vuoto, di salvare le sue sorelle, ha adempiuto solenne il voto. Cadde riverso il gran sultano tra le cupole e le colonne, e fu così che Scheherazade liberò tutte le donne. E dopo mille notti mille, la millesima gli fu fatale. Volò il sultano in pascoli azzurri, non poteva più fare del male. Dalle porte della reggia, del sole entrarono i raggi, dalle favole di Scheherazade danzaron fuori i personaggi. Egregio pubblico, ti salutiamo, ma ti narriamo da cantatrici che Scheherazade amò Aladino ed ebbero tanti bei giorni felici. Chiara e Francesco. L'amore di Francesco era una grande cosa, l'amore di Francesco per la sua sposa. Chiara lo amava, Chiara desiderante, lo sentiva arrivare anche da distante. Pregavano assieme, senza carezza alcuna, perché una volta fatto l'amore si consuma. Trascinò moltitudini, quell'amor potente, a lasciare ogni cosa, a vestirsi di niente. L'eterna beatitudine gli ho visto preferire alla soddisfazione cui seguono noia e ire. E che te ne fai di una serva per moglie che per dovere soddisfa le tue voglie? Un uomo nudo, d'amore vestito, è mille volte meglio che averci un marito. Ridevano assieme come dei bambini, davano da mangiare ai lupi e agli uccellini. Per non bruciarsi gli occhi abbassavan lo sguardo, la corsa è più importante che arrivare al traguardo. Il cuore gli scoppiava per troppo sentimento e non si vedeva che cosa avevan dentro. Qualcuno li capì, ad altri sembrò strano. Come si guardavano tenendosi per mano. Paura di sciupare l'incanto e il desiderio, facendo come tutti per scherzo e sul serio. E che te ne fai di una serva per moglie che per dovere soddisfa le tue voglie? Un uomo nudo d'amore vestito è mille volte meglio che averci un marito. Dedicazione finale a Venus Venezia. Inno alle Pleiadi. Sorelle invisibili. Guida ai naviganti, fauste Pleiadi, incancellabili dalle mappe dei cieli, stelle ritrovate, figlie di Artemide, case della luna, oscure alle anime cieche, fanciulle chiarissime, protette da Targatis la Siria, veggenti di un passato futuro, sirene degli antri campani, piccioni australi, balie del grande uovo. Colombe del salotto di Orione, rifugiate nell'ascella del cosmo, gemelle dal nome di Gang, signorine mille nomi, grappolo di luce, infuocata danza, tracce tenui, favolose muse di universi ritrovati. Il grande cambiamento. E se 10 volte non l'avete ascoltata, non potete dire che se l'è cercata. E se 100 volte voleva denunciare, non dite che non la potevate aiutare. E se per 1000 volte ha chiesto aiuto, la vostra non è stata distrazione di un minuto. Guardate come cambia la storia in un momento, guardate come arriva il grande cambiamento. E se 10 volte han pianto le bambine, il padre le ha uccise come vitelline. E se 100 volte la madre le ha difese, ora siamo in piazza con le fiaccole accese. E se 1000 volte fu femminicidio, non basta rimediare un vostro suicidio. Guardate come cambia la storia in un momento, guardate come arriva il grande cambiamento. E se 10 volte avete ucciso la madre, il suo grande cuore adesso si riapre. E se 100 volte avete ucciso la storia, è rimasta intatta nella nostra memoria. E se 1000 volte ci avete cancellate, per tutte quelle volte noi siamo rinate. Guardate come cambia la storia in un momento, guardate come arriva il grande cambiamento, guardate come arriva il grande cambiamento, guardate come arriva il grande cambiamento. Perché tutte le volte che avete alzato un muro, noi ci abbiamo scritto sopra il futuro.